Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Ciao Chiara. Ciao Federico. Si scrive Parloma o Parluma? Non ne ho idea, non lo so. Vabbè, però. Allora iniziamo. Benvenuti a Möbius, adesso i titoli e poi Parloma, Parluma. I sordociechi per comunicare si devono toccare, ma a breve potrebbero farlo anche in rete. Le megattere hanno sviluppato una nuova strategia di caccia. Percuotono violentemente la coda e soffiano bolle d'aria su un banco di pesci. Un chip organico e trasparente è stato messo a punto dal CNR italiano. Può comunicare con i neuroni e potrebbe pure ripararli in caso di malfunzionamento. Matematica per costruire corpi umani. È lo strumento per creare attori e attrici completamente digitali. Adesso vi parliamo di Parloma o Parluma. C'è un piccolo giallo all'inizio. Ne parlo con... con Marco Indaco del Politecnico di Torino e proponente del progetto Parluma. Questa è una domanda che mi viene posta spesso e il nome è una parola piemontese, deriva dal dialetto piemontese, per cui è Parluma, che dovrebbe significare parliamo. Meno così mi hanno insegnato, io da buon napoletano diciamo, ho imparato al volo. Va bene, poi il progetto invece è una cosa assolutamente molto seria, che ha vinto uno dei bandi MIUR per la social innovation. I bandi MIUR per social innovation sono quelli che richiedono come leader del progetto dei giovanissimi, che tipicamente sono dottorandi. Allora, di che cosa si occupa Parluma? Sì, il progetto Parluma ha come obiettivo quello di migliorare la vita delle persone sordocieche. In che modo? Creando uno strumento di comunicazione, che appunto noi ci piace definirlo un telefono appunto per sordociechi, che sia in grado di remotizzare la comunicazione tra soggetti appunto sordociechi. Certo, una persona sordocieca ha una tale disabilità nella comunicazione che per comunicare con altre persone ha bisogno di essere esattamente di fronte, diciamo. Sì, si devono toccare reciprocamente le mani, perché la lingua dei segni tattile, che poi è una versione semplificata della lingua dei segni, impone diciamo questa cosa qui. Come si può aggirare il problema? Il problema si può aggirare con una tecnologia che secondo il nostro parere è molto semplice ma al contempo innovativa, ovvero quella di catturare il segno che si fa tramite uno strumento di acquisizione quale per esempio la Kinect della Xbox, quindi vuol dire un'interfaccia che si trova a un bassissimo prezzo in tutti i negozi di giocattoli, possiamo dire. Quindi attraverso questo sensore catturare il segno, ovvero che significa catturare il segno, catturare la posizione delle mani e del braccio, come si evolve nello spazio, spedire il tutto via internet in remoto. E in remoto abbiamo una mano robotica che riprodurrà esattamente la stessa posizione delle dita, del braccio e della mano per riproporre il segno. Vediamo se ho capito bene e voglio anche provare a spiegarlo ai tanti che magari non conoscono questo tipo di tecnologia, però senz'altro l'hanno vista. La tecnologia Kinect è quella che ti consente di giocare a tennis avendo di fronte un grande schermo, ma tu in aria tiri dei grandi colpi, diritti, rovesci, battute e sullo schermo questo viene riprodotto. Cosa succede? Che se si tratta di usare delle mani per comunicare, allora quel segno che viene fatto nell'aria in un certo punto diventa un segnale che va lungo la rete e dall'altra parte c'è una mano robotica che lo riproduce. Esattamente, esattamente, è così. Mi viene da chiederti però un particolare tecnico che penso sia importante da far capire. Qui bisogna anche che questo progetto abbia l'efficienza di poter cogliere i tanti modi di, diciamo tra virgolette, parlare di un sordo cieco, no? Sì, esattamente. Questa, se vogliamo, è una delle grosse sfide che ci accompagnerà lungo il progetto, in quanto gli algoritmi necessari per riconoscere la forma della mano e il suo relativo movimento nello spazio sono abbastanza complessi e, come dici tu, ci vorrà un lungo lavoro per rendere questi algoritmi flessibili e soprattutto stabili, in modo tale che possano permettere una comunicazione in real time, come si dice in gergo, cioè senza un'attesa infinita di processamento dei dati, e soprattutto che qualsiasi sia la forma della mano del segnante, l'algoritmo sia abbastanza robusto per poter cogliere l'informazione. Anche la velocità con cui uno muove le dita. Dico questo e te lo chiedo perché per esempio i sordomuti, molti non lo sanno, ma hanno dei loro modi di parlare che si riconoscono tra di loro. Cioè, un sordomuto può dirti: ah, quel mio amico che ha quello strano modo di parlare, vuol dire che ha un certo modo di muovere le dita e insieme le espressioni. Qui dovete raggiungere quell'efficienza lì, se no diventa una comunicazione lenta e molto fredda. Ovviamente sì, diciamo il nostro obiettivo, anche per rendere la soluzione in qualche modo utilizzabile al 100%, commercializzabile eccetera, è proprio quella, cioè quella ovviamente di lavorare sulla tecnologia per renderla quanto più efficiente e stabile anche dal punto della velocità, come dicevi te. Viene spontaneo pensare se questa cosa rischia di avere dei costi molto elevati? Sì, questa è una domanda interessante. Noi abbiamo lavorato nella definizione del business plan, no? Del modello di business associato al progetto, in modo tale da renderlo quanto più economico possibile. In che modo? Uno dei partner del progetto è la Scuola Superiore Sant'Anna, con Calogero Maria Oddo, che è uno dei proponenti del progetto, che stanno lavorando a un'interfaccia robotica low cost, che dovrebbe costare, diciamo, al cliente finale circa 3.000 euro, che è una cifra molto bassa rispetto ai 100.000 che oggi possiamo trovare in circolazione come spesa per una interfaccia robotica. In più considerate che non è detto che entrambi gli interlocutori nella comunicazione debbano avere l'interfaccia robotica, perché due sordociechi sicuramente ricevono con l'interfaccia robotica, ma se un sordocieco comunica con una persona vedente, alla persona vedente non serve l'interfaccia robotica in ricezione, ma gli basta soltanto uno schermo. Mi viene da dire però che forse non siete lontani invece dal fatto che possa generare il sordocieco dall'altra parte anche qualcosa di scritto o anche addirittura un audio in progress in un futuro magari neanche tanto lontano. Sì, infatti diciamo un sogno, perché adesso così possiamo chiamarlo, sarà proprio quello di estendere questa tecnologia sul largo consumo. In che modo? In modo tale che qualcuno che segna, il nostro sistema cattura l'informazione, il segnario in qualche modo, e lo riproduce in italiano scritto sul dispositivo, per esempio su un tablet. Quindi immaginiamo per esempio in banca o in tutti gli uffici comunali la possibilità che un sordo, a questo punto sto estendendo, non l'ho premesso prima, la tecnologia nell'ambito dei sordi, quindi non più sordociechi ma sordi, immaginare un sordo che va a uno sportello pubblico, fa una richiesta in LIS e la nostra tecnologia traduce in italiano scritto al funzionario che dall'altra parte non ha alcuna conoscenza della LIS. Ricordo che LIS appunto è uno dei linguaggi di comunicazione fra sordi tra i più evoluti. Bene, grazie allora e buon lavoro. Grazie mille e crepi il lupo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Microchip organico, detto sì, così. Trasparente, che trasparente. Dialoga e comunica. Tu sei già andata oltre. I neuroni. No, ecco. Però già microchip organico è qualcosa. Non è sì, facile da maneggiare. Sì, è vero. Sì. No, infatti la facciamo troppo semplice e troppo breve. Invece adesso dedicheremo un bello spazio a questa notizia che un po' si è letta sui giornali, però ha lasciato forse qualcosa da dover precisare, qualche aspetto scientifico da precisare. E allora noi ci pensiamo noi, lo facciamo con il responsabile dell'Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati del CNR. Ha messo a punto questa nuova tecnologia. È qui con noi stasera Michele Muccini. Buonasera. Buonasera. Buonasera Muccini. Lei è responsabile di questo centro che, per dover di cronaca dobbiamo dire, ha lavorato insieme all'Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività, sempre del CNR di Bologna, e quindi le chiediamo, insomma, diamo a lei intanto la parola per raccontarci di questa nuova tecnologia. Io però vorrei chiederle prima una breve premessa, cioè ormai siamo entrati in un'epoca in cui l'organico e l'inorganico possono avere dei punti di confine fortissimi, no? E voi che lavorate proprio in quest'area dei materiali nanostrutturati siete un po' la frontiera, no? Di questo tipo di ricerca. Assolutamente, assolutamente. È proprio così. L'integrazione di varie tecnologie, l'integrazione di vari sistemi è proprio l'area in cui si possono ottenere delle nuove possibilità, delle nuove funzioni. E proprio diciamo, la nostra attività di ricerca va proprio a colmare questa parte inesplorata, e andando a considerare tutto ciò che può venire dai materiali nanostrutturati, quindi se scendiamo su scale estremamente piccole e non ci preoccupiamo più di tanto se per fare qualcosa dobbiamo combinare materiali di natura diversa. Sì, ma è vera questa cosa che ho letto da qualche parte, cioè che lì questo meccanismo che viene a innescarsi è che con queste strutture, no? Con queste nanostrutture, l'organico, cioè il corpo, viene un po' ingannato, ci casca e non vede che sono artificiali e incomincia a dialogare. Esattamente, e diciamo così, un pochino il trucco di questo è che i materiali che noi mettiamo a contatto con le cellule, quindi con il materiale biologico, ha dentro chimicamente le stesse specie che sono quelle tipiche dell'ambiente biologico, quindi sono materiali a base di carbonio e quindi vengono ad essere più tollerate, quindi non è visto come un corpo estraneo che darebbe luogo a delle reazioni molto importanti anche in breve tempo, ma l'affinità chimica che c'è fra questa tipologia di materiali e l'ambiente biologico e quindi le cellule, in questo caso le cellule neuronali, sono molto più affini, quindi i due mondi sono molto più interfacciabili. E scatta un dialogo. E in questo contesto che avete lavorato per creare quello che dicevamo prima, questo microchip molto particolare. Esattamente, l'idea è stata quella di superare l'utilizzo di materiali che invece sono molto poco affini con il nostro corpo, quindi con sistemi biologici complessi, e di utilizzare dei materiali che fossero a base di carbonio e quindi molto più tollerabili. Quello che noi abbiamo fatto è stato di aprire una possibilità di studio nuova, riuscendo a dimostrare in maniera chiara che esiste la possibilità di interagire con delle reti neuronali funzionanti e di manipolarne il loro funzionamento spontaneo con una piattaforma di materiali che non è mai stata esplorata in precedenza, e mostrando che sono sistemi biocompatibili, quindi che non provocano un immediato rigetto da parte delle cellule, dei sistemi neuronali, questo apre una possibilità estremamente nuova di studio e quindi si capisce immediatamente che avendo la possibilità di studiarlo, di capirlo e di interagire con il funzionamento delle reti neuronali, siamo in grado di non solo di essere degli spettatori attivi sulla scena del funzionamento, ma anche di poter intervenire laddove eventualmente questo funzionamento si rivela non efficace. Ma lo scopo, cioè a noi cosa servirebbe? Quali vantaggi porterebbe? Parlate di transistor. Sì, no, parliamo di transistor, ma lo scopo, ovviamente il transistor è uno strumento, è un mezzo per arrivare ad avere una comprensione di un sistema così complesso come quello del cervello, che è il sistema più complesso con cui noi oggi ci dobbiamo confrontare da un punto di vista scientifico e da un punto di vista medico, e lo scopo è ovviamente quello di poter avere uno strumento che è in grado di, in prospettiva ovviamente, di poter fornire degli strumenti di cura, quindi di analisi, di studio, ma poi di cura laddove ci siano dei malfunzionamenti delle reti neuronali, quindi del cervello. Quindi in ambito di malattie importanti neurodegenerative come il Parkinson, l'epilessia e così via. Tutte quelle malattie in cui la cui origine è quella proprio di un funzionamento anomalo da parte di alcune zone del cervello. Quindi guardando avanti, questo chip in qualche modo sarebbe in grado di rilevare il malfunzionamento e in qualche modo voi dall'esterno riuscireste a manovrarlo, a controllarlo e a fare in modo che invece torni a lavorare in maniera normale. Sì, esatto, questa sarà la grandissima sfida che abbiamo da qui in avanti. Una volta dimostrato in vitro che questo è possibile e avendo una piattaforma di materiali che sono particolarmente flessibili, sinuosi, quindi si adattano alla forma assolutamente irregolare che ha un cervello nelle sue condizioni normali e che ha bisogno di questa morfologia, di questa strutturazione per poter funzionare, a quel punto in prospettiva il lavoro che noi faremo da oggi in avanti è quello di poter vedere con questo chip come interagire con il cervello e come farlo funzionare nelle zone in con cui eventualmente abbia dei problemi a funzionare regolarmente. Questo forse è il passaggio che è rimasto un po' sospeso dalle comunicazioni di questi giorni che abbiamo letto anche sui giornali, sui quotidiani nazionali. La fase della ricerca in questo momento è importante, gli iter sono lunghi, lo sappiamo. Certo, voi certo. I risultati che avete ottenuto sono sperimentali, di laboratorio, ancora non c'è una sperimentazione animale, corretto? Dunque, c'è una sperimentazione in vitro, il che vuol dire che noi siamo in grado di far interagire il dispositivo su delle parti di cervello funzionanti, ma non è sono delle fettine di reti neuronali. Il passo successivo è quello di fare delle sperimentazioni in vivo, quindi andando effettivamente a far interagire, a mettere questo microchip e i sistemi che ne possono derivare direttamente sul cervello. Ma l'obiettivo poi è quando, diciamo, lo strumento fosse definito e operativo, è quello di avere proprio dei piccoli circuiti che possono essere magari messi sotto pelle o ancora più in profondità, sì. e arrivare a quello. Devono stare a contatto? Sì, devono stare a contatto, sì, e, sì. E hanno una loro autonomia di funzionamento a quel punto. Esatto, guardi, le dico l'obiettivo proprio di prospettiva, l'obiettivo finale di tutta questa ricerca è di poter avere dei dispositivi, dei chip che possono essere messi direttamente a contatto con il cervello e svolgere la loro funzione e poi essere degradati dal corpo senza bisogno di rintervenire nuovamente. Cioè, questa è una possibilità che questa piattaforma in prospettiva può offrire, un po' come quando vengono dati dei punti di sutura interni che poi si riassorbono autonomamente da parte del corpo e non c'è bisogno poi di andare di nuovo a intervenire in maniera invasiva. Quindi lo scopo fondamentale è quello di poter avere una tecnologia e dei materiali che possano essere inseriti laddove si identifica una necessità di intervento, farli funzionare per il tempo che serve e poi lasciare che il corpo ne degradi e li riassorba. Certo, dal suo racconto, da quello che ci sta raccontando, dalle funzionalità e dalle prospettive, è un lavoro importante, tanto che, non l'abbiamo detto prima, si è guadagnato la pubblicazione su Nature Materials, che comunque è una rivista del settore scientifica molto molto importante. Quindi diciamo che siamo all'inizio, però la tecnologia insomma c'è, abbiamo capito che è pregiata, preziosa, però parecchio lavoro ancora bisogna svolgerlo. Sì, assolutamente sì, diciamo che la cosa importante è avere mostrato che si apre una nuova prospettiva e soprattutto che si può beneficiare per questo tipo di attività di quello che già si sa e che è già stato ottenuto come conoscenza sulle tecnologie parallele, sulle tecnologie gemelle. Certo. In effetti uno dei risultati più importanti che è stato riportato sulla rivista scientifica inglese è il confronto con le tecnologie esistenti, cioè ci è stato chiesto di dimostrare in maniera non ambigua il fatto che questa tecnologia abbia delle potenzialità nettamente superiori rispetto a quelle delle tecnologie oggi disponibili in commercio, e questo è stato scientificamente dimostrato. Quindi questo significa che la possibilità di poter essere estremamente sensibili e poco invasivi è una potenzialità estremamente grande, e quindi questo è l'interesse, e noi siamo abbastanza ottimisti sullo sviluppo futuro, perché non partiamo da zero ma beneficeremo assolutamente delle conoscenze sviluppate con le altre tecnologie. Credo anche in conclusione che si possa dire che c'è una grande conoscenza da sviluppare, quindi molto investimento, ma poi il risultato finale potrebbero essere degli strumenti davvero a bassissimo costo che possono risolvere problemi giganteschi come quello, ad esempio, del Parkinson, no? Esattamente, diciamo, questo è una delle chiaramente quando si parla di costi bisogna sempre molto essere molto cauti, perché poi il costo è formato da varie componenti. Però sicuramente i materiali di cui parliamo sono dei materiali che sono processati con tecnologia a basso costo, sì, relativamente a quello che viene utilizzato oggi in tecnologie commerciali. Quindi sicuramente questo potrebbe essere un elemento importante, perché dovrebbe riuscire a rendere accessibili questo tipo di strumenti medici, esatto, ad una grandissima porzione di gente. Purtroppo, esatto, per malattie molto diffuse, quindi lì c'è anche, come dire, purtroppo, lo ripetiamo, ma un'economia di scala, insomma, andrebbe a risolvere un problema di tantissime persone. Sì. Esattamente, esattamente. No, questo, diciamo, sono quelle tecnologie che sono ad elevatissimo contenuto di conoscenza, ma a basso, diciamo, come dire, investimento di macchine, di strumentazione. Grazie davvero, Muccini, quanto mai buon lavoro a tutto il gruppo. Grazie, grazie mille. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ma riusciremo un giorno, Chiara, ad avere qui in studio, magari anche piccolo, una megattera con la cuffia a farle non delle so domande? Non so se ci starebbe in questo studio, una piccolina, megattera. Un cucciolo di megattera. Una balenò, forse un delfino potremmo avere, io se so. Riempissimo di acqua allo studio. Sono molto contento che ogni tanto noi parliamo dei cetacei. Degli animaloni. Beh, allora, in Italia la ricerca sui cetacei è sempre molto all'avanguardia. Buona. E infatti noi, essendo uscita una ricerca molto molto recente americana, pubblicata su niente poco di meno che Science, abbiamo chiamato un'esperta nazionale, che è la nostra Sabine Eroldi, che è la nostra cetaciologa, diciamo così, che è una dei direttori di ricerca del gruppo Tetis. Intanto benvenuta, bentornata Sabina. Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Lei è una cetaciologa. Una cetologa, sì, ma cetaciologa è molto più carino. L'abbiamo inventato qui, sì. Benissimo. Allora Sabina, lasciate la parola per raccontarci di questa ricerca sulle megattere, un nuovo studio e ha delle caratteristiche molto importanti e fondamentali per la ricerca su più fronti. Cominciamo a raccontarla. Sì, allora, intanto è un gruppo di colleghi americani, fra cui peraltro Luke Randall è un mio caro amico, quindi abbiamo anche lavorato insieme. Loro cosa hanno fatto sostanzialmente? Hanno raccolto 27 anni di dati sul comportamento delle megattere durante la caccia, cioè nel periodo in cui si alimentano. Hanno notato che nel 1980 un animale ha iniziato a sbattere la coda sull'acqua, sulla superficie dell'acqua, mentre proprio prima di andare sott'acqua e creare queste bolle che fanno sott'acqua, che è la tipica strategia di caccia utilizzata un po' da tutte le megattere nel mondo. Cioè solitamente loro si immergono, fanno queste bolle sopra un banco di pesci per come dire, confonderli e creare una sorta di rete per cui poi se li mangiano. Invece sì, devi sapere che i piccoli pesci, quando si spaventano, che cosa fanno i piccoli pesci? Di solito si riuniscono e formano la cosiddetta palla. Sciocconi. Perché solitamente i loro predatori sono degli altri pesci che, vedendo, anziché il piccolo pesce, vedendo invece una grossa palla di pesci, pensano che sia un grosso animale e quindi desistono dal cacciarli. Le balene, che sono invece molto più intelligenti degli altri pesci, in realtà sanno perfettamente che quello non è un grosso pesce ma una palla di piccoli pesci, per cui semplicemente aprono la bocca e ingollano tutto quanto. Quindi loro solitamente utilizzano questo metodo, cioè vanno sott'acqua, creano delle bolle, le bolle spaventano i pesci fanno una palla, loro risalgono in superficie spalancando la bocca, ingollano il boccone e gluck. Ecco, la particolarità è che negli anni 80 è stato osservato che prima di fare tutto questo una delle megattere sbatteva la coda prima di immergersi. Esatto, questo cosa è successo? Che nei 15 anni successivi molte altre megattere hanno iniziato a presentare questo comportamento. Allora la domanda dei ricercatori è stata: ma questo comportamento, che sostanzialmente è passato da un animale all'altro, comunque prima è stato avvistato solo in un individuo e poi via via in sempre più individui, è legato a una trasmissione genetica, quindi mamma con figlio, qualcosa che è legato ai geni? È legato a un fattore ecologico, cioè per pescare, per catturare una determinata specie particolare di pesce è necessaria questo tipo di comportamento, o è in qualche modo migliore rispetto a quello di creare delle bolle, oppure sono riusciti a trasmettersi culturalmente, quindi socialmente, questo comportamento? La risposta pare sia la terza, cioè che ci sia stata proprio una trasmissione, cioè gli animali incontrandosi, mangiando insieme, gli animali abbiano imparato, semplicemente osservando gli altri, questo comportamento. E via via si è talmente esteso che oggigiorno sono moltissimi gli individui che fanno questo, quello che viene chiamato in inglese lobtailing, cioè questo sbattere la coda. Quindi riporta ancora una volta all'intelligenza di questi animali, che riescono proprio a trasmettere culturalmente dei comportamenti. Questo sbattere la coda E in che modo serve alle megattere per procurarsi meglio del cibo? E questa è la domanda. E in realtà non si sa se effettivamente serve a migliorare, diciamo, ottimizzare la strategia di caccia. Può darsi che spaventi ancora ulteriormente le prede e quindi crei quel panico che faccia in modo che si aggreghino ancora prima e ancora meglio, ancora prima di creare le bolle. Ma forse in realtà non serve nemmeno, e quindi forse può anche essere semplicemente un comportamento che in qualche modo possa, chi lo sa, cioè le megattere evidentemente lo possono fare anche magari per comunicare fra di loro, perché stanno meglio, cioè purtroppo questo non lo sappiamo perché non abbiamo ancora imparato il balenese, quindi non siamo ancora riusciti a fare un'intervista. In realtà diciamo che, a parte gli scherzi, scientificamente non è stato individuato una sicura motivazione e ragione, cioè non c'è nessun link e spiegazione scientifica che indichi che questo tipo di comportamento in qualche modo ottimizzi la caccia. Quello che però è vero è che ora moltissimi individui, prima di cominciare a cacciare, sbattono la coda. E questo è un po' il punto di forza di questo studio, che appunto si è guadagnato la pubblicazione su Science, perché la prima balenotte era avuto, diciamo, il lampo di genio, poi in qualche modo l'ha diffusa, gli altri l'hanno in qualche modo imparato, acquisito, e comunque c'è stata una diffusione culturale, non so come dire, ed è questo il punto di forza, cioè sono talmente animali intelligenti, mammiferi intelligenti, che traendo probabilmente vantaggio da questo comportamento, e noi umani non abbiamo capito ancora qual è questo vantaggio, forse, però loro l'hanno percepito e quindi l'hanno diffuso in qualche modo. Esatto, quindi ancora una volta viene sostanzialmente sottolineata sia la complessa socialità di questi animali, che hanno questi continui incontri fra di loro, infatti spesso cacciano insieme, si incontrano, si lasciano, si riuniscono, e come vi dicevo la straordinaria capacità di trasmettere cultura. Ricordiamo che le megattere lo fanno anche con i suoni, cioè ci sono, come anche le orche, hanno la capacità di trasmettere dei cosiddetti dialetti, delle vocalizzazioni che si distinguono da gruppo a gruppo, e i dialetti sono diversi e c'è una trasmissione culturale di quel dialetto. Siamo veramente di fronte a mammiferi molto evoluti. Molto evoluti. Ricordiamo che sono fra i pochissimi mammiferi, oltre all'uomo e ad alcune scimmie antropomorfe, a riconoscersi allo specchio, cioè ad avere coscienza di se stessi, e questo è inevitabilmente un altro indizio chiaro della loro adesso questa ce la spiego un attimo, però prima volevo... Come avete fatto a saperlo? Uno specchione davanti a una megattera, però va bene. No, ma scusa, siamo, e quindi siete assolutamente certi che questo sbattimento di coda non c'era prima, c'è stato un inizio della moda? In realtà non possiamo essere sicuri che non ci sia stato prima, perché purtroppo non esistono tanti ricercatori quante megattere che esistono nel mondo, quindi potrebbe essere. Quello che naturalmente, noi parliamo, ogni volta si parla naturalmente di qualcosa che da un punto di vista scientifico si definisce statisticamente significativo, sì. Cioè si è notato che da un numero minimo, cioè da un individuo o pochi individui, questo comportamento è aumentato in modo significativo. Si è diffuso. Infatti la cosa straordinaria anche, Sabina, di questa ricerca è il fatto che noi abbiamo 26-27 anni di osservazione, che è una roba straordinaria per una ricerca, cioè è difficile avere una linea di continuità così importante. Esatto, hai detto bene, perché il problema quando uno vuole fare, soprattutto quando si tratta di fare degli studi sui comportamenti, esiste, cioè, e non si fanno purtroppo in laboratorio, perché per fortuna non abbiamo megattere in laboratorio. Quando si lavora in natura e con mammiferi marini, per cui che ci scompaiono davanti agli occhi ogni pochi minuti, l'unico modo per riuscire ad ottenere risultati che siano risultati credibili, diciamo, occorre avere delle serie storiche importanti. E qui devo dire, voglio spezzare una lancia a favore di Tethys, perché Tethys esiste da 27 anni, e quindi anche noi, voi i pochissimi Mediterraneo siamo forse gli unici che hanno 26 anni di dati, ed è questo sostanzialmente la forza, perché lavorare con questi animali è un patrimonio certo straordinario, perché è l'unico modo in realtà per poter ad un certo punto con tantissimi dati riuscire a dire qualche cosa che sia credibile e sensato su questi animali. Quindi ed è per questo motivo che noi continuiamo ogni anno, come facciamo negli ultimi 26 anni, nel santuario Pelagos qui in Mar Ligure, a stare 5 mesi in mare a monitorare le specie, perché è l'unico modo che ci possa permettere per dire stanno aumentando, stanno diminuendo, c'è qualche problema, com'è il loro stato di conservazione. Infatti è interessante sapere che insomma c'è qualcuno che le osserva. Noi non abbiamo nel nostro santuario le megattere, ma insomma sappiamo che le balenottere sono ben avvistate e ben monitorate. Sì, noi non abbiamo le megattere, ma le nostre balenottere comuni sono più grandi delle megattere. Gli animali più grandi al mondo secondo solo la balenottera azzurra, per cui non abbiamo diciamo niente da invidiare. No, scusa Sabina, restava fuori questa roba della megattera o della balenottera, insomma, che si specchia. Forse era studiato sui delfini. Sui delfini. Esatto, studiato sui delfini. Stavamo naturalmente parlando di cetacei. Ah, ok. Sono stati fatti su dei tursiopi, che sono gli animali che purtroppo per loro si adattano alla particolarmente cattività. Bene, o meglio alla situazione di cattività, devo dire purtroppo per loro, perché finiscono ad andare nelle vasche dei delfinari e negli acquari, ma insomma gli hanno messo uno specchio davanti, apportando delle piccole modifiche diciamo al loro aspetto esterno, e si sono riconosciuti. Questo succede in pochissimi animali, sì. Questo indica però che questo animale ha una coscienza di sé. Allora, se noi mettiamo la coscienza di sé, se noi mettiamo la complessità delle vocalizzazioni di questi degli odontoceti e dei misticeti, quindi di tutti i cetacei, che da molti vengono veramente considerati un vero e proprio linguaggio, anche se ovviamente non paragonati a quelli dell'uomo, la trasmissione culturale, insomma, diciamo che ci troviamo di fronte degli animali che sembrano dei pesci, ma che sono tutt'altro che dei pesci, sono dei mammiferi estremamente intelligenti ed evoluti. Che potremmo avere qui in onda con la cuffia. Volevo concludere, Sabina, perché qualche mese fa l'ascoltatore più attento si ricorderà che ti avevamo sentito per un progetto, sempre nel nostro appunto Mar Ligure, Mar Mediterraneo, in cui avevate monitorato per tutto l'inverno gli spostamenti delle balenottere attraverso degli strumenti particolari. Ora il progetto si è concluso, volevamo capire insomma che cosa avevate trovato. C'è qualche balenottera che se n'è andata al largo, molto al largo? Certo. Abbiamo messo dei tag satellitari a 7 individui di balenottere, grazie a un finanziamento del Ministero dell'Ambiente, per curiosare, per seguire a distanza questi animali. E li abbiamo messi a settembre diciamo così, con la curiosità e forse anche la mutua speranza di vedere andare e seguirli in tutti gli angoli del Mediterraneo. Sì, ecco, i tag, diciamolo, sono semplicemente degli strumenti che vengono applicati sul dorso, non producono nessun disturbo all'animale, e però riceviamo i dati di geoclocalizzazione a terra. Certo, sì, ci permettono sostanzialmente di seguirli a distanza per qualche mese, poi vengono l'animale stesso, la pelle, li espelle, insomma, poi vengono ributtati in mare, dove è giusto che alla fine finiscano, però per qualche mese ci consentono di vedere dove vanno, e questi naturalmente sono dati fondamentali, perché solo sapendo poi come si spostano, dove le aree di alimentazione si spostano nel tempo, meglio come loro si spostano per cercare le loro prede, è fondamentale poi per cercare di tutelarle e proteggerle. Dove sono andate a svernare? Ebbene, sono rimaste nel santuario sostanzialmente. Vedi. Sono rimaste tranne una che se n'è andata fino a Barcellona, non l'aveva mai vista, perché insomma ha voluto fare una botta di vita, se n'è andata a Barcellona ma poi è rientrata, per cui almeno noi abbiamo i dati fino a circa fine dicembre, poi appunto purtroppo i tag non hanno più trasmesso, e, però sono rimasti nel nostro santuario, quindi le nostre balenottere sono rimaste a svernare in Mar Ligure. Vi state preparando voi perché appunto ricomincia la vostra di stagione, insomma la vostra stagione osservativa lunedì. Ecco, allora, Sabina, ricordiamo velocissimi in conclusione che chi fosse amante dei cetacei, chi volesse fare il biologo per una settimana, può venire in barca con voi. Come facciamo a metterci in contatto se volessimo venire in mare con voi? Dunque, in contatto il sito che è www.tetis.org. Ora faccio lo spelling perché Tetis viene dal greco, quindi TETHYS.org. Sul sito metteremo tutti i riferimenti come sempre, quindi anche sul nostro sito gli ascoltatori lo troveranno. Vi aspettiamo. Grazie Sabina, buon vento. Ciao, buon lavoro. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ma lo sai che la Terra rispetto a Saturno è piccola, piccola. Saturno è un gigante. Lo so. E soprattutto Saturno forse è molto più bello. Non lo so, perché anche la Terra è bella vista dall'alto. Sì, però certo, quel giro vita lì che ha Saturno. Con quei fianchi sono splendidi, enormi. No, da qui nasce un po' la bellezza di Saturno, gli anelli che si porta appresso, e hanno in qualche modo ispirato questo evento che si terrà sabato prossimo. Noi cominciamo ad anticiparlo, poi se ci saranno le condizioni meteorologiche, forse riusciamo a combinare qualcosa, riusciremo a seguirlo. Non promettiamo niente. No, l'evento si chiama Occhi su Saturno, appunto, ripetiamo la data, 18 maggio 2013. E che cosa succederà? È un evento piuttosto straordinario, se vogliamo. Sì, perché gli occhi sono veramente circa 100, no? Che sì, puntano verso Saturno, partendo da, beh, insomma, da osservatori anche di quelli professionali, ma soprattutto i tanti astrofili. Che però hanno amatoriali, fior di apparecchiature, non è che sono lì col binocolino. Sì, la Società Astronomica Italiana è riuscita a organizzare 100 eventi sparsi in 18 regioni italiane, quindi una grossa iniziativa patrocinata da l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Unione Astrofili Italiani. Tutta l'idea nasce dall'Associazione Stellaria di Perinaldo. Perinaldo è un paesino, voi direte, ma perché? Beh, perché a Perinaldo è nato Cassini. Gian Domenico Cassini, che è uno studioso appunto di Saturno, a cui è dedicata anche una sonda spaziale. Allora, quindi, chi volesse per caso partecipare a questi eventi, noi sul sito mettiamo tutti i contatti. Comunque basta digitare su qualsiasi motore di ricerca Occhi su Saturno e con una semplice mappa può scegliere l'osservatorio più vicino a casa. Probabilmente i posti saranno limitati perché l'evento è piuttosto conosciuto, è piuttosto importante, e quindi si potrà evidentemente prenotare il posto. Credo anche che qualcheduno di questi, lo vedrete dai siti, possa anche trasmettere online l'osservazione, quindi se non altro ve la potete vedere sul monitor da casa. Occhi su Saturno, allora, il sabato prossimo, 18 maggio, che il tempo sia favorevole. Speriamo. Buona osservazione a tutti. Ci arriva in redazione Pristem, una rivista di matematica edita dalla Bocconi, che spesso usiamo per avere delle idee su cose di cui parlarvi, e troviamo un articolo su questa rivista che si intitola Matematica per il corpo umano. E ho qui con me questa sera Manuel Bastioni. Buonasera Bastioni. Buonasera. Lei è uno dei due autori dell'articolo, l'altro chi è? Ce lo ricordi per correttezza? Pierluigi Graziani. In questo articolo molto ampio si narra e si discute di quella che ormai è diventata una scienza applicata, di enormi proporzioni e con una grande sofisticazione, ed è insomma quella tecnologia alla base della quale però c'è anche una continua ricerca per riuscire a costruire questi personaggi digitali che, certo, in film, per esempio come Avatar, abbiamo visto in una delle loro ultime espressioni, però cominciamo a vederle anche negli spot pubblicitari, no Bastioni? Sta veramente allargandosi. E insomma, il vostro obiettivo qual è? Quello che si arriverà ad avere degli attori e delle attrici completamente digitali e che però saranno assolutamente non distinguibili da quelli in carne ed ossa? Sotto c'è questo desiderio. Sì, nel campo dell'animazione il fine principale, diciamo, è soprattutto questo. In realtà le applicazioni degli umanoidi virtuali sono tantissime. Certo. Ricordiamo per esempio le applicazioni mediche. certo. Di applicazioni nelle simulazioni ergonomiche all'interno dei veicoli, oppure per determinate simulazioni, ad esempio quelle incidenti stradali o cose simili. Quindi No, il campo è vastissimo. Certo, lei ricordava quelle mediche, per esempio, si utilizza la creazione di ambienti dove ci sono persone che però sono totalmente verosimili ma digitali, e per esempio per quel tipo di patologie che sono il timore, l'ansia di stare a stretto contatto, no, con altri, ebbene in una situazione simulata digitale si può incominciare a... Per esempio sì, oppure gli umanoidi sono utilizzati con successo per simulare determinati disturbi tipo l'anoressia, esatto. Per vedere come il paziente si autorappresenta in versione virtuale. Certo. E quindi misurare in maniera precisa l'entità, il livello del problema, insomma. Però torniamo alle applicazioni multimediali. Torniamo a un aspetto invece centrale, perché parlarne in generale sarebbe veramente complicato. Vediamo però un aspetto particolarmente interessante. Lei è anche autore di questo software che si chiama Make Human, insomma fare umani, mi pare che sia dichiarata l'intenzione, e c'è anche un sito makehuman.org dove si può andare a trovare un sacco di cose davvero molto interessanti, molto suggestive. Ecco, però la domanda intorno alla quale vorrei ruotare in questa chiacchierata che facciamo è questa. Rispetto a un largo pubblico che ormai sta assolutamente vedendo questi personaggi digitali, quali sono le cose più difficili da simulare? Probabilmente non abbiamo idea di quali siano. Quali sono? Sì, in effetti le cose più complesse sono quelle a cui a prima vista non si fa caso, diciamo, le quali l'utente non si rende conto. Per esempio, per fare un esempio piuttosto importante, è la simulazione della pelle umana. La pelle. È tra le cose più complesse che ci possa essere, perché il comportamento del materiale organico, la pelle, è difficile da simulare al computer. Ricordiamo che nella computer grafica si cerca di simulare la natura, quindi si utilizzano determinate leggi matematiche e fisiche per tentare di riprodurre lo stesso comportamento che i materiali hanno nella realtà. Il problema diventa complesso con materiali particolarissimi, proprio come la pelle umana, perché sono composti in parte di acqua, in parte di tessuti organici, e la pelle, quando giunge su questo genere di tessuti, e la luce, quando giunge su questo genere di tessuti, si comporta in maniera difficile da prevedere. Ecco, mi scusi un attimo, perché sembra impossibile che sia quello il problema principale? Perché partiamo dall'idea che lì voi, con gli algoritmi e con i pixel, dovete digitare in fondo una superficie che ha quel suo colorito rosa abbastanza omogeneo, allora tendiamo a dire, forse questa è la cosa più semplice. E invece non è così, perché immediatamente noi ci rendiamo conto che quella cosa è fasulla. Ma nella computer grafica è appunto quella di rendere il personaggio credibile. Anche questo sembra semplice, ma non lo è affatto, perché se si sbaglia la simulazione si avvicina a un grado di realtà che è sufficientemente elevato per dare l'idea dell'umano, ma non è sufficiente per renderlo credibile, per cui si ottiene l'effetto di una marionetta, di una sorta di statua di cera che determina nello spettatore una sensazione di fastidio quasi. Sì. Perché appunto si ha questa idea di una marionetta che si muove in maniera scattosa oppure in maniera innaturale e non suggerisce appunto quello che magari lo spettacolo oppure il programma necessita che suggerisca. Il fatto è che noi non siamo consapevoli di questa nostra grande capacità di attenzione e di distinzione, però quando ce la troviamo di fronte agisce, il cervello funziona. Infatti, per esempio, basta considerare che nelle espressioni comuni, quando noi abbiamo un interlocutore di fronte, percepiamo tutta una serie di microespressioni, cioè sono impercettibili movimenti muscolari oppure battito di ciglia che sono complessissimi da catturare a livello matematico informatico, ma che rendono nell'insieme, nella totalità, rendono appunto un viso credibile, un viso familiare, un viso che è in grado di trasmettere sensazioni. Se noi prendiamo un viso modellato anche perfettamente, molto credibile da un punto di vista della resa statica, e lo mettiamo in animazione in maniera sbagliata, per cui non sbatte bene le ciglia oppure non ha questi micromovimenti, otteniamo l'effetto di una bambola parlante, che spesso è proprio il contrario di quello che si vuole. È terrificante. Oltre alla pelle? Volevo anche dire, insomma, che la simulazione della luce è piuttosto complicata. Volevo spiegare appunto il perché, perché la luce entra nei tessuti, si insinua sotto la pelle, raggiunge ad esempio i tessuti più rosei, quelli muscolari, i vasi sanguigni, poi rimbalza, dopo essersi sparsa sotto la pelle, rimbalza verso l'osservatore, quindi crea degli effetti complessissimi. Volevo giusto rendere l'idea di quanto possa essere difficile simulare questo processo, certo. E altre cose complesse, ad esempio i capelli sono difficilissimi, non solo nella simulazione del movimento del capello, perché si parla di muovere milioni di capelli, milioni di punti che compongono i capelli, in maniera che si comportino come i capelli veri, quindi soggetti ad attrito, soggetti al movimento del vento, soggetti al movimento della gravità, insomma, complessissimo. Ma una delle difficoltà, veramente tuttora in fase di studio, veramente difficile da superare, è la modellazione dei capelli in 3D. Cioè, per un artista è estremamente difficile ancora oggi simulare, per esempio, per modellare una pettinatura complessa come può essere quella di una sposa, ad esempio, un'acconciatura complessa. Immaginarla in 3D, modellarla affinché sia realistica, è tuttora una sfida aperta. Mi sa che il nostro tempo sta finendo, però citiamo, mi pare che un'altra cosa molto complessa sono i muscoli. E i muscoli sono anche loro una cosa complessissima, sebbene sia un tipo di tecnologia che è andata parecchio avanti negli ultimi anni, è in fase, diciamo, di soluzione. E con i computer più potenti è stato possibile simulare tutto il sistema muscolare completo e poi ricoprirlo di un tessuto simile alla pelle, in modo che questa si comportasse come la pelle reale. Sì. Il problema è un po' più semplice, però bisogna immaginare che per avere una corretta simulazione muscolare occorrerebbe un modello 3D che incorpori tutti i muscoli del corpo. Che è veramente pazzesco, sì, certo. Calcolando che poi ogni muscolo, diciamo, ha una sua forma particolare, un modo di reagire diverso, quindi certo. problemi molto, molto complessi. Perché, ricordiamolo in chiusura, non immaginate, voi che ci state ascoltando, state ascoltando Bastione, non immaginate che loro disegnano dei corpi. In realtà loro costruiscono questi corpi perché, come dire, riescono con l'algoritmo a riprodurre i meccanismi che li muovono. Sì, la verità. Un corpo tridimensionale, certo, in realtà è una nuvola di tantissimi punti tridimensionali che poi vengono gestiti da gigantesche matrici di algoritmi lineari, generalmente, per cui diventa veramente difficilissimo muovere questa nuvola di punti in maniera che poi sembri realistica. Grazie Manuel Bastioni, ricordo machuman.org, perché è un bel sito dove molte di queste cose che abbiamo detto le vedete amplificate, esemplificate, insomma c'è il racconto di questa grande ricerca. Grazie e buon lavoro. Cetacei che sbattono le loro code, transistor di neuroni, parlare in rete con le mani e costruire umani con la matematica. Detta così, in conclusione, la sintesi della puntata, si potrebbe dire che avete ascoltato un folle happening, e invece non è così per tutti voi che appunto già avete ascoltato, e quindi tornerete qui con noi fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.